aveva una pistola in mano, una grossa automatica, la mostrava, parlava. E quando si avvicina gli sento dire: mi avevano chiamato qui all'arena per delle esecuzioni, solo che non mi ero accorto dal peso della pistola che avevo poche cartucce. E così, dopo pochi colpi, ho dovuto chiamare due della Muti che hanno liquidato quelli che erano rimasti. Dei merdoni, comunque, dice sempre Pavolini. Dei merdoni che mi chiedevano pietà, che volevano la mamma, gente che non sa morire. Poi, quando ho saputo dell'esecuzione di Pavolini a Dongo, mi sono chiesto se lui ha saputo morire. È arrivata la primavera del 1945. A Milano e in tutta la Lombardia ci si sposta sui carri bestiame mentre i tram circolano tra le macerie. Per riscaldarmi il cuore. Dal barbiere si va per strada e i giornali ammoniscono di controllare continuamente i rubinetti del gas. Nel 1944, nella sola città di Milano, sono morti asfissiati 230 cittadini contro i 12 del 1939. Per contro, il 6 aprile, il podestà e prefetto di Milano Piero Parini rende obbligatoria la denuncia delle galline ovaiole. I milanesi, per sfuggire ai controlli dei vigili, rinchiudono le galline al buio nelle cantine. Che ha tanto freddo il cuore. Il 10 aprile il generale Clark annuncia l'inizio dell'offensiva anglo-americana verso la Valle del Po. Ricorda ai partigiani che è opportuno che le città italiane siano liberate dalle truppe alleate. Ma il CLN non è dello stesso avviso. Togliatti scrive a lungo in questi termini: il nuovo ordine del giorno del generale Clark è stato emanato senza l'accordo del governo né nostro. È Luigi Longo da Milano a diramare disposizioni per l'insurrezione nazionale. L'ordine è liberare i grandi centri del nord prima dell'arrivo degli alleati. Nella notte la terza brigata Garibaldi occupa la caserma di Niguarda. Le brigate Matteotti si impadroniscono dei blindati tedeschi parcheggiati nella fiera campionaria. Alle 8 del 25 aprile si riunisce il CLN che approva l'ordine di insurrezione e affida al comitato tutti i poteri civili e militari. Alle 11 a Sesto San Giovanni entra in vigore il piano per la difesa delle fabbriche e alle 13 ha inizio lo sciopero dei tranvieri. Le vetture sono lasciate nei depositi o abbandonate per le strade. Tra mezzogiorno e le prime ore del pomeriggio vengono occupate tutte le principali fabbriche. I partigiani entrano nelle sedi del Corriere della Sera, della Gazzetta dello Sport e del Popolo d'Italia. Prendono possesso degli impianti e pubblicano le prime copie dell'Unità, dell'Avanti e di Italia Libera, organo del Partito d'Azione. La mattina del 25 aprile l'insurrezione era già cominciata il pomeriggio prima. Io mi sono trovato con un enorme problema, cioè non avevo soldi. E allora ho affrontato, come si poteva affrontare con l'incoscienza dei vent'anni, una traversata di Milano per arrivare a Sempione, dove pareva che negli uffici amministrativi ci fossero ancora soldi. Per arrivarci ci ho messo ore, perché a piedi naturalmente, passando da un posto di blocco partigiano a un posto di blocco fascista. Poi alla fine sono arrivato giusto in tempo per vedere Rivelli, il grande direttore generale, uscire e dire: ah, mi dispiace, buongiorno, ma non ci sono più fondi, c'è stata una grande richiesta di anticipi, sto giusto andando dal Duce per prendere ordini. Sull'insurrezione di Milano sono state dette delle cose fuorvianti, nel senso parecchi hanno detto a Milano non c'è stata l'insurrezione. Effettivamente a Milano non ci poteva essere l'insurrezione perché prima di tutto la città era molto distante dalle formazioni partigiane, sia da quelle dell'Oltre Po che da quelle delle valli bergamasche e bresciane. In secondo luogo perché a Milano si sono concentrate nei giorni della disfatta tutte le forze fasciste. Al seguito di Mussolini c'erano circa 30-40 mila